spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità di Irene Zerbini. Innanzitutto buongiorno, un saluto. 16 minuti dopo le 8 affronteremo tanti temi in questa giornata e naturalmente vogliamo sentire anche le vostre opinioni su questi temi. Come farlo? Raggiungendoci al telefono 800 24 00 24, questo è il numero da comporre, oppure ci mandate il vostro messaggio SMS 349 238 6666. Si parla a volte di bambini contesi, oggi invece affronteremo un tema molto meno conosciuto, se vogliamo, anche se è difficile fare una classifica, più drammatico: i bambini sottratti alle famiglie. Vi racconteremo in particolare la storia di una signora e suo marito che aspettano da 2 anni di veder tornare a casa i propri figli allontanati dalla famiglia. Perché? Perché avevano dei vestiti usati quando andavano a scuola e vivevano in una casa giudicata troppo piccola dagli assistenti sociali. Dunque la situazione era considerata di indigenza. I bambini stanno in una struttura, in una casa famiglia che tra l'altro costa 100 euro al giorno al comune. Perché dunque non aiutare il nucleo familiare come previsto dalla Costituzione? Affronteremo questo tema che non riguarda purtroppo solo questo nucleo. Ad oggi non si sa esattamente quanti, perché nemmeno esiste un censimento, ma sono più o meno 40.000 in Italia tra neonati, bambini e ragazzi ospitati in strutture di accoglienza, allontanati dai propri genitori, un esercito di nessuno. E di questi, quello che dovrebbe essere una nobile causa, cioè dovrebbero essere stati allontanati a fronte di abusi o comportamenti sconvenienti dei genitori. Invece in realtà tutta questa storia nasconde spesso un considerevole giro di denaro, ma ne discuteremo alle 8.30. E poi ancora affronteremo il tema dei vicini di casa. Sono considerati il cuore della comunità a volte all'estero, rivestono un ruolo fondamentale nelle nostre vite. Eppure lo sapete che ancora oggi il 50% delle cause civili in Italia è intentata da un vicino contro un vicino? E voi? Vi fidate dei vostri vicini? Avete forse, chissà, saputo trasformare una vicinanza in amicizia, trasformare l'occasione di un litigio in una sorta di fratellanza? Ci piacerebbe sentire anche, naturalmente, storie dall'esito positivo. Di questo parleremo però nel corso di Spunti di Vista, nel corso del GR delle 9. Ora andiamo altrove, in Olanda. Visti da fuori. Non è vero, siamo ancora qui, ma è una specie di specchio bifronte quello di questa trasmissione, si chiama Visti da fuori e ogni mattina, come sapete, andiamo a incontrare un corrispondente straniero che vive in Italia. Oggi incontreremo addirittura il presidente della stampa estera in Italia, Maarten van Alderen. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. Corrispondente per The Telegraph e presidente di questa associazione così importante che raduna tutti coloro che si trovano in Italia per raccontarla da fuori. Lei scrive, anzi tu Maarten, scrivi per The Telegraph e la domanda è d'obbligo naturalmente: quali sono gli ultimi articoli che hai scritto da qui? Allora, sono tanti perché io scrivo praticamente ogni giorno un articolo sull'Italia. Oggi è uscito un mio articolo su Carlo Tavecchio a proposito della sua candidatura per la Federazione Italiana Gioco Calcio, perché ci sono state naturalmente molte polemiche a proposito della sua uscita molto infelice. Ora, io ho scritto nel mio column che c'è già molto razzismo negli stadi italiani, che lo Stato italiano tenta di affrontarlo e di contrastarlo, e quindi per questo motivo credo che la sua nomina non sia molto azzeccata, diciamo. Non credo che sia una nomina molto felice, perché quello che ha detto mi sembra piuttosto grave. E questa gravità, se fosse per esempio, stiamo naturalmente ipotizzando una situazione completamente teorica, fosse accaduto in Olanda, sarebbe ancora proponibile come candidato della FIGC o della Federazione Gioco Calcio Olandese? Ora, io non voglio dire che il nostro è un paese idilico dove non succede mai nulla di male, però in Olanda non sarebbe accaduto, che qualcuno l'avrebbe detto. Qui invece viene, adesso uso a caso degli aggettivi che ho sotto gli occhi, scorrendo un pochino di stampa, di agenzia, di notizie, viene definito al massimo uno scivolone, un malinteso, un'uscita infelice. Come sarebbe stato definito in Olanda? È molto di più. Non è un malinteso, no, magari fosse un malinteso, non è un malinteso. Purtroppo ritengo che quello che ha detto sia invece stato un segno di razzismo. Quindi lui ha utilizzato queste parole come pedigree, eccetera, ha parlato di banana, insomma, questo non lo puoi fare. Purtroppo io poi ho fatto una battuta finale nel mio column. Perché in Olanda, perché lui nel momento in cui parla di pedigree e di banana, praticamente sembra che lui vuole paragonare i giocatori che vengono dall'Africa con le scimmie. In Olanda c'è un'espressione che dice fare la scimmia quando qualcuno fa una brutta figura, e quindi io ho finito questo mio column: se c'è uno che ha fatto la scimmia è stato proprio lui, nel senso che ha fatto veramente una figuraccia, e purtroppo non è stato malinteso, ma è stato molto di più. Quindi grazie per questa sottolineatura. E questo esempio di questo tuo ultimo articolo è veramente indicativo del lavoro che fate. È un grande onore avere dei corrispondenti stranieri pagati da altri stati per raccontare questo paese, e colgono degli aspetti che appunto magari dalla stampa nostrana così sono minimizzati, perdonati in qualche modo, visti come alcune frasi infelici, e in realtà altrove vengono considerati in maniera molto seria, perché si prende molto sul serio la responsabilità delle parole di persone che occupano o sono candidate a occupare posizioni di grande visibilità pubblica, di grande responsabilità. E per questo il tuo ultimo articolo su Tavecchio. Oltre a Tavecchio, di cosa ti sei occupato recentemente? Allora, ho scritto tanti altri articoli, fra cui la mostra di Michelangelo Buonarroti a Campidoglio, che vale la pena, che è molto interessante anche dopo 450 anni dopo la sua morte. Hanno quindi deciso di fare questa mostra a Campidoglio, e questo è interessante perché lui ha lavorato, cioè lui ha fatto la piazza di Campidoglio, Michelangelo all'epoca, e anche ha ricostruito anche il palazzo in cui si trova adesso questa mostra, quindi l'aveva ricostruito quasi completamente, quindi è interessante la collocazione in cui si trova questa mostra. Poi ovviamente ho parlato della Costa Concordia, ma al contrario di molti colleghi. In che senso al contrario? No, scusi, a parte di molti colleghi miei che sono andati lì, che sono andati sul posto, sì, di nuovo, questa volta il mio giornale non mi ha mandato all'Isola d'Argilio a Genova. Io ho scritto da Roma sull'avvenimento quando è arrivato a Genova, che è andato tutto bene. Molti colleghi miei sono andati anche lì sul posto, sono andati all'Isola d'Argilio con la partenza e poi a Genova per l'arrivo. Questo io, il mio giornale questo non lo voleva più, però comunque ho scritto naturalmente su questo, e questo mese anche sulla soluzione di Berlusconi, naturalmente sul caso di Ruby, che è stato molto importante. Poi ho scritto un column molto positivo sulla bellezza di Napoli, perché si sa che purtroppo a Napoli può capitare che ci sia corruzione, c'è ancora la camorra, ma è sempre una città bellissima, e quindi ho scritto anche sulle molte cose positive che si perderebbero se non si andasse a vedere la città. Un osservatore dell'Italia da nord a sud, naturalmente, e anche ti addentri nelle pieghe dei comportamenti. Ora vorrei chiederti perché il The Telegraph, giornali olandesi e non solo, e nella dimostrazione il fatto che ogni giorno staniamo uno dei tuoi colleghi proveniente dai paesi più disparati del pianeta, hanno tanta attenzione per l'Italia, cosa che intriga soprattutto? No, l'Italia ha mille aspetti, è un paese interessante da vari punti di vista, poi c'è naturalmente anche il Vaticano, non si deve dimenticare questo, che in tutto il mondo è interessante quello che dice il Vaticano, che adesso questa settimana non credo di aver scritto un articolo sul Vaticano. Poi è un paese diverso, né bene né male, ma comunque c'è sempre qualche curiosità, qualcosa. Poi sta naturalmente al corrispondente di trovare degli argomenti che poi proponiamo ai nostri giornali. È un paese che quando si sta all'estero non si deve dimenticare che è anche un paese importante di turismo. Adesso siamo alla fine di luglio, io oggi pomeriggio voglio andare per esempio a Cinecittà World, che è stato appena aperto da qualche giorno, e quindi questo può anche essere interessante per il turismo, come anche la mostra di Michelangelo Buonarroti e anche chiaro. Quando parli di Napoli. No, l'aspetto turistico ci appare chiaro, e quello che è incredibile è questa controtendenza, che naturalmente ci fa molto piacere, visto che, come sappiamo, nelle testate, qui non parlo solo di giornali ma anche di radio, di televisione, in generale di chi fa informazione di tutto il mondo, i fondi e il budget per coloro che raccontano in prima persona gli esteri in generale sono sempre più ridotti, cioè il racconto del mondo ormai si riduce a delle postazioni di corrispondenti molto risicate e sempre più a rischio, e questo non risparmia nemmeno il Wall Street Journal, colleghi e testate autorevoli che hanno mezzi ingenti, è sempre più ridotto e delegato in qualche modo a quelle che sono le agenzie internazionali. Poi si manda in giro il corrispondente per il grande avvenimento politico, quindi che l'Italia possa ancora invece suscitare tanto interesse e tanto stanziamento da parte di testate è senza dubbio una cosa interessante. D'altra parte espone l'Italia, positivo. È molto positivo, ma espone l'Italia a 380 soci alla stampa estera a Roma, 380. Sì, e poi ci sono 80 soci a Milano, che hanno dependance della nostra associazione, quindi tutto insieme siamo in tanti, in effetti. Prima di salutarti voglio farti una domanda veloce che anticipa una delle tematiche che affronteremo alle 9, e vale la pena di parlare oggi di vicini di casa. Mi interessa sapere in Olanda che concezione o che approccio avete verso il vicinato. Allora, noi abbiamo un'espressione in Olanda che dice meglio avere un vicino buono che un amico lontano, quindi questo conviene avere un buon vicinato. Noi abbiamo molto spesso, molti vivono in casa schiera, dove ha a che vedere con spesso due vicini, ora gli olandesi tengono da una parte molto la privacy, dall'altra parte insomma normalmente i contatti sono buoni, ma per fortuna anch'io qui a Roma ho ottimi vicini, quindi per fortuna questo è possibile, ovviamente anche in Italia. Grazie a Martin Van Alderen, corrispondente per The Telegraph e presidente della stampa estera in Italia, che come avete sentito consta di 380 soci, cioè giornalisti a Roma e 80 a Milano. Ci ritroviamo tra pochissimo per chiederci, è vero, potremmo essere genitori poveri, ma perché toglierci i figli? Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Uno degli aspetti è senza dubbio la voglia di vicini di casa. Torna qualcuno a cui chiedere il sale, titola una inchiesta su questo tema del Fatto di lunedì 28 luglio, una tematica che attraversa l'Italia. Voglia di uscire da questo anonimato, di aiutarsi l'un l'altro, è davvero così? Se poi d'altro canto abbiamo i tribunali incivili intasati da cause uno contro l'altro, vicini, condomini, compagni di pianerottolo che addirittura si trascinano davanti al giudice per delle quisquiglie, potrebbe dire qualcuno, loro le definiscono elementi di disturbo che impediscono di vivere. Voi come la pensate? Di questo discuteremo però dopo le 9. Intanto per le vostre esperienze potete chiamare l'800 24 00 24. Potete contattarci anche nel corso della giornata alla nostra email spuntidivista@radio24.it o farci sapere come la pensate anche in diretta con l'SMS al 349 238 6666. È un tema orribile, me l'ha definito un ascoltatore in un SMS, quello che stiamo per affrontare, ma assolutamente attuale. È la storia di genitori a cui vengono sottratti i figli solo per situazioni di indigenza, che tra l'altro potrebbero essere sanate. E comincio proprio con disturbare una mamma. Si chiama Silvia e la ringrazio molto per la sua disponibilità oggi in onda. Silvia Petri, buongiorno, benvenuta. Pronto? Silvia? Non riusciamo in questo momento a sentire la voce della signora, cominciamo a far raccontare quanto accaduto dunque dall'avvocato della famiglia, Maria Carsana. Buongiorno, dottoressa Carsana. Buongiorno a voi. Sostanzialmente a questa famiglia sono stati portati via in istituto 6 bambini perché la famiglia è stata giudicata inadeguata, in quanto questi bambini su segnalazione della scuola erano spesso sporchi, avevano la pedicolosi, venivano vestiti con i vestiti donati dalla parrocchia, a volte non avevano il materiale scolastico, a volte non avevano la merenda, però tutto questo è chiaramente riconducibile a un motivo di povertà, in quanto a livello empatico comunque la famiglia aveva funzionato, perché questi bambini erano e sono estremamente legati ai propri genitori e sono molto legati tra loro, quindi questo vuol dire che a livello affettivo comunque i genitori erano adeguati. Racconta la signora che l'assistente sociale che l'aveva vista lavare il bimbo in una tinozza, questo perché viveva in un appartamento composto da due stanze, non aveva precisato che quel lavaggio, quel bagnetto avveniva a causa di una dermatite. Il bagnetto nell'amido serviva a curare proprio questo. L'assistente sociale si è presentata alla porta su segnalazione della maestra perché i bambini non avevano l'album da disegno e non avevano le merendine del supermercato, ma alcune merendine sotto costo del discount, e sulla base di questo l'assistente sociale appunto ha deciso che la via migliore per la tutela di questi bambini fosse l'allontanamento dalla famiglia. In quel momento il marito, dunque il padre di questa famiglia, lavorava, anche se lavorava saltuariamente, mentre la madre faceva la mamma a tempo pieno. Silvia Petri, non so se abbiamo avuto modo di ricontattarla in questo momento. Silvia, è con noi? Pronto? Sì, buongiorno. Innanzitutto grazie per essere nostra ospite. Sappiamo non è facile raccontare questa vicenda, che risale a quanto tempo fa, quando lei ha avuto la prima visita dell'assistente sociale? Prima che mi portassero io e i miei figli, il 26 marzo del 2012, io ero seguita dai servizi sociali perché mi davano un contributo economico ogni 6 mesi, era più di un anno che loro mi seguivano. Poi ho chiesto un pulmino perché io dove abitavo, che tra virgolette adesso non abito più, io essendo che non ho la macchina per portare i miei figli a scuola mi serviva un mezzo, anche se mio marito prendeva e portava mio marito e i bambini a scuola. Ho chiesto un pulmino e è successo tutto in un lampo, nel senso io feci la richiesta del pulmino a gennaio e gennaio, febbraio e marzo me l'hanno portati via i bambini. E lei tra l'altro era anche in lista, in attesa per l'assegnamento di un alloggio nelle case popolari, visto che vivevate. Sì, come no, sì, ho fatto già più di due volte la domanda per la casa comunale, ma purtroppo ci stanno sempre più avanti altre persone che Silvia, da marzo 2012 ad oggi, quante occasioni ha avuto di vedere i suoi figli? Li vede? Ha ancora dei contatti? Sì, io i miei figli li vedo, li potevo vedere anche prima, adesso però grazie al mio avvocato Carsana che ho la possibilità che il sabato e la domenica i bambini mi vengono a casa. E già sono già 2 settimane che loro mi vengono a casa. Quindi da 2 settimane lei li incontra in casa. Ha detto si è spostata. Sì. Dove vive adesso? Tutto questo è accaduto ad Anzio. Sì, io sto a Roma, perché purtroppo al Carago dove abitavo ad Anzio mi hanno ritolto casa, senza casa, mi hanno buttato fuori, sono presi a banca. Sta a Roma perché sua madre vive a Roma. Sì, io ho mia mamma che abita a Roma. E quanto costa allo Stato e al Comune tenere questi bambini lontani dai genitori, cioè in case famiglia? 18.000 euro. Al mese? Sì. Perché sono 100 euro al giorno per ogni figlio. Allora ci si chiede, invece di procedere a queste operazioni terribili naturalmente per per il benessere dei bimbi e dei genitori. Non si poteva in qualche modo studiare un sussidio, un aiuto dal punto di vista pratico per questa famiglia? Nel frattempo suo marito continua a lavorare, Silvia? Sì, mio marito lavora, è ritornato con la vecchia ditta che aveva nel 95, grazie a lui adesso sta in regola, prende un bel stipendio, cioè lavora, cioè non ci manca niente come non ci mancava niente 2 anni fa. E quindi? Siamo una famiglia completamente unita, vogliamo bene i nostri figli, stiamo combattendo per i 15 nostri figli, loro ogni volta che io li chiamo al telefono, li vediamo tutti i giorni o il martedì quando ci devo andare, loro in continuazione, mamma quando veniamo a casa, mamma quando facciamo la doccia insieme, mamma quando mi fa il bagnetto, il più piccolo, quello di 4 anni, tante altre cose, insomma. E il più grande quanti anni ha, Silvia? Quanti anni? 12 anni e mezzo. Bambini dai 4 ai 12 anni. Avvocato, lo chiedo a lei. Lei è presidente dell'Associazione per la tutela del minore. Sappiamo tra l'altro che questa storia è indicativa di una realtà molto diffusa. Non era possibile con questi fondi stanziati per il sostegno, per il pagamento della retta alla casa famiglia, dare un sostegno alla famiglia? Tra l'altro il papà adesso lavora a tempo indeterminato, quindi vengono anche meno le condizioni di precarietà che avrebbero generato questa cosa. Esatto, il problema è che il comune ha un problema di capitoli di spesa. E quindi di conseguenza i fondi per darli alla casa famiglia ci sono, ma non ci sono fondi stanziati per darli alla famiglia. Adesso io ho fatto un'istanza al giudice del Tribunale per i minorenni di Roma, perché a seguito della riforma che c'è stata e del decreto attuativo 154 del 2013 è stato previsto esplicitamente che il giudice debba sollecitare il comune di appartenenza e residenza dei minori di fare interventi di aiuto alla famiglia per poter dar modo ai bambini di crescere all'interno della famiglia. Che è previsto anche dalla Costituzione, tra l'altro. Esatto, è l'articolo 31 della Costituzione. Tenga presente che io sono sicura che a seguito di questo invito che il giudice dovrebbe fare, l'assessore ai servizi sociali, Roberta Cafà, che è a conoscenza di questa situazione, sicuramente sarà in grado di dare un alloggio a questa famiglia. C'è un divieto, tra l'altro espresso nella legge, un divieto esplicito di passare ad affidamenti e adozioni in caso di indigenza. È chiaro che possono e devono e deve esistere l'istituto dell'affidamento, ma le situazioni che lo richiedono, che lo rendono necessario, devono essere di ben altro tipo, ben più drammatiche. Esatto. Ovvero sicuramente se ci sono dei problemi di violenza all'interno della famiglia o di maltrattamenti o di proprio situazioni di totale inadeguatezza, tenga presente che i coniugi Petri stanno facendo un percorso presso il consultorio di Nettuno di recupero della capacità genitoriale e quindi anche sotto questo profilo stanno cercando di rendersi più adeguati possibile per poter riavere i loro bambini a casa. Percorsi di recupero della capacità genitoriale, sì, chissà, della genitorialità. Forse in tanti ne avremmo bisogno, perché poi bisogna anche capire chi decide e in base a quali criteri che qualcuno sia in grado di essere un genitore. In questi casi comunque è obbligatorio, è chiaro. Per far capire al tribunale, no? Per far valutare la coppia genitoriale. La buona volontà e naturalmente la determinazione a fare di tutto perché i bambini possano tornare a casa. C'è anche chi vuole contestare qualcosa rispetto a questa storia e naturalmente la precedenza ce l'hanno sempre gli ascoltatori. Ripeto, prima di dar la parola a Enrico, il numero di telefono 800 24 00 24, e sentiamo da Brescia. Buongiorno Enrico. Lei è un papà affidatario? Sì, sono un papà affidatario. Io guardi, faccio fatica a credere alla versione della signora, della mamma. Abbiamo fatto fatica anche noi, però sono 40.000 le persone in questa situazione, poi allargheremo. Sono uno invece dei genitori che ha preso in carico una bambina, che adesso ormai è una ragazza, che veniva da una famiglia inadeguata. Ecco. E se posso portare la mia esperienza, quando abbiamo conosciuto la bambina, era in grado di mangiare a tavola, non aveva più i pidocchi, era quasi una persona normale. Quando è entrata in comunità, in una di quelle case famiglia che ha citato in precedenza, non era in grado. Sì, ma forse il percorso della bimba che ha lei è diverso da quello che stiamo raccontando. Io le sto raccontando il percorso di tutti i bimbi che ho visto nella mia esperienza, che è di anni. Io ho visto che i bambini non vengono tolti dalle famiglie per questioni economiche, perché al comune di residenza costano tantissimo in termini economici quando vengono tolti, e quelle famiglie lì di solito non fanno un bambino, ma ne fanno 4, 5, 6. Di solito quelle famiglie lì hanno una mamma che ha 3-4 figli con una persona e 3-4 figli con un'altra persona, ha capito? Per cui quando interviene il comune, la cosa è molto pesante. Enrico, grazie per questa sua segnalazione, naturalmente grazie anche per quello che fa nella vita, è un genitore affidatario. E ora vi presento un altro ospite, ed è l'avvocato Francesco Morcavallo. Lui è avvocato, ma in realtà ha iniziato la sua attività come giudice e ha lasciato la toga, deluso dalla giustizia. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. 47 minuti trascorsi dalle 8, benvenuti a coloro che si sono uniti ora alla trasmissione. Irene Zerbini al microfono. Stiamo affrontando una tematica sconosciuta, c'è un esercito di sconosciuti, se ne parla poco in radio, in TV, sugli organi di stampa, anche perché in genere l'invito ai giudici è non farlo sapere, per il bene del minore non parlate di queste cose. Stiamo parlando di bambini sottratti alle famiglie in quelle situazioni in cui basterebbe semplicemente un intervento economico per assicurare il bene del minore, cioè vale a dire rimanere all'interno del nucleo familiare. Dunque non stiamo parlando di situazioni di abuso, situazioni di violenza sessuale o di inadeguatezza. Francesco Morcavallo, avvocato, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Adesso, lo so, non le piace parlare di lei, lo faccio io. Comunque lei è giudice, lei è avvocato, scusi, era giudice presso il Tribunale dei Minori di Bologna. Perché ha lasciato la magistratura? Ma, diciamo che le situazioni di cui state parlando sono la normalità, e questo è anomalo, ed è anomalo soprattutto in ragione di un difetto che riguarda l'attività dei tribunali che si occupano di questi problemi, è un difetto soprattutto di indipendenza. E dunque lei ha lasciato la toga, diciamo così, proprio quando si è reso conto che i procedimenti aperti, 25.000 al Tribunale dei Minori di Bologna, alcuni di questi erano molto vecchi, risalivano in alcuni casi anche a 30 anni prima, ed erano molto appiattiti rispetto alle relazioni dei servizi sociali. È chiaro che quando un minore, un bambino, si trova a rischio di abusi e violenza, bisogna fare qualcosa, intervenire anche allontanandolo dalla famiglia. In realtà scopriamo, parlando con voi e informandoci sulla vostra attività, che nella maggior parte dei casi sono situazioni di pura indigenza che portano a questo provvedimento. Ma lei è in grado di darci delle cifre, visto che ha sentito c'era molta diffidenza da parte anche di alcuni ascoltatori che dicono ma non è vero, in realtà per arrivare all'allontanamento dalla famiglia bisogna che siano state riscontrate situazioni gravissime, altrimenti queste cose non si fanno. Lei ha delle cifre da fornirci? Lei ha dato già una cifra, di 25.000 era una cifra solo annuale e solo in uno dei vari tribunali per i minorenni in Italia. Diciamo, non esiste, come è noto, un'anagrafe degli affidamenti eterofamiliari, ci sono dei progetti di legge che sono in fase di elaborazione attualmente. I minori allontanati sono, si stimano tra 40 e 50 mila in base ad una stima ufficiale che era del 2010-2011 e che viene aggiornata in via statistica sulla base del trend di crescita dei procedimenti. L'esperienza notoriamente comune ci parla di una percentuale altissima di allontanamenti che non sono determinati da situazioni di pericolo concreto e attuale della permanenza del bambino in famiglia. Quindi siamo nell'ordine dell'80-90% di allontanamenti che sono connessi a motivi di indigenza economica o di disagio relazionale o di disagio culturale dovuto a situazioni di migrazione. Quindi situazioni che potrebbero essere recuperate, mi corregga se sbaglio avvocato, lasciando i bambini con i genitori e sostenendo in qualche modo, non solo economico ma anche con dei percorsi naturalmente ed inserimento lavorativo e sociale, la famiglia. Ma guardi, la nostra Costituzione a cui facevate riferimento prima, che alla quale tanto si inneggia in occasioni solo celebrative, si distingue proprio per il fatto di individuare i cosiddetti diritti sociali, cioè le situazioni di disagio, tanto più se di disagio economico, cioè di povertà, si risolvono mediante la fruizione di diritti sociali. Quindi il diritto all'assistenza sociale non si esaurisce nel relazionarsi con operatori dell'assistenza sociale che siano incaricati solo di valutare la famiglia. Gli operatori dell'assistenza sociale hanno il compito di sostenere la famiglia a disagio, non di valutarla sotto il profilo generico della adeguatezza o inadeguatezza, altrimenti cosa succede? Succede che sulla base di impressioni dell'assistente sociale si arriva a provvedimenti che riproducono la relazione appunto dell'operatore sociale assistenziale, una relazione valutativa che si basa su impressioni, su elementi assolutamente incerti e non concreti, e addirittura si arriva in molti casi al paradosso di allontanamenti dovuti solo a situazioni di indigenza, quando c'è un divieto esplicito normativo che esclude questa possibilità, cioè di passare ad affidamenti o adozioni in caso di indigenza. Le tariffe per il mantenimento in una casa famiglia, tra l'altro, sono onerose per un comune e andrebbero indirizzate quella a cui avete diversamente fatto riferimento voi è tra le più basse, peraltro. Cioè 100 euro al giorno è una tariffa bassa, secondo la sua esperienza. È tra le più basse. Qual è la... In realtà io ho sentito anche l'intervento, mi pare, di un ascoltatore, che però a mio avviso è confermativo della situazione, cioè? Di cui state parlando. Intanto si è fatto riferimento a motivazioni relative all'allontanamento di bambini che riguardano appunto questa categoria assolutamente generica, astratta, della inadeguatezza. Non si allontana un bambino dalla propria famiglia, nella quale il bambino o l'adolescente hanno diritto di crescere, per ragioni di inadeguatezza, cioè sulla base di una valutazione quasi di un giudizio di valore astratto. L'allontanamento è previsto solo per le ipotesi di pericolo attuale, concreto e comprovato di permanenza del bambino e la famiglia. Cioè la decisione che ci può essere, avvocato Morcavallo, la decisione di allontanamento che ci può essere in alcuni casi deve essere presa sulla base di cosa? Allora, in base a fatti certi ed approvati, lei dice, non impressioni. In base a fatti certi e comprovati, non a valutazione, deve essere pericoloso per il bambino rimanere nel proprio contesto familiare, perché in quel contesto familiare il bambino viene picchiato, viene violentato, viene fatto oggetto di abusi fisici o psicologici. Il giudizio di inadeguatezza espresso in modo così generico, in altro non consiste che in una valutazione soggettiva che viene inserita in una relazione dell'assistente sociale e 99 volte su 100 viene riprodotta testualmente in un provvedimento provvisorio del Tribunale per i minorenni, provvedimento provvisorio solo nominalmente, perché poi i fatti vengono approfonditi dopo molti mesi. E quindi intanto il bambino o i bambini sono stati allontanati. Ha sentito anche il giudizio morale su quelli che fanno tanti figli, come si è espresso quell'ascoltatore, e altri si stanno esprimendo con gli sms al 349-238-6666, no? C'è questo giudizio. Che questo la dice lunga anche sulla provenienza culturale di molte persone che gravitano nell'orbita di queste famiglie affidatarie, case famiglie, strutture eccetera. Comunque non bisogna generalizzare, ci sono anche persone eccellenti, perché è uno dei compiti e dei ruoli svolti nella società forse più difficili che esistano, a collarsi dei bambini. C'è un problema spesso però di esorbitanza dell'affidatario rispetto alla funzione che gli è richiesta, cioè l'affidatario non dovrebbe esprimere un giudizio sulla famiglia di provenienza, certo, del bambino. Faccio presente che l'affidamento eterofamiliare è un istituto che è normativamente finalizzato al reinserimento del minore nella famiglia di provenienza, quindi dovrebbe essere un rapporto di collaborazione, di sostegno in un percorso, e chiaramente senza che ci sia denigrazione della famiglia d'origine, dove si dovrebbe in termini ideali tornare. Noi tra pochissimo daremo la linea al GR e sentiremo anche gli ascoltatori, sono molto arrabbiati, alcuni, abbiamo anche degli assistenti sociali in linea che si sono sentiti in qualche modo chiamati in causa, e certi giudizi di valore, ci scrive invece qualcuno al 349-238-6666, sono insopportabili. Allora chiediamoci anche quanto sono preparati gli assistenti sociali. Questa è Alessandra che parla. Gli allontanati non sono legati solo alla povertà, sono queste delle funzioni svolte da queste case famiglia di protezione dei bimbi. È Sandro che ci scrive, e come vedete è un pubblico molto diviso su queste situazioni e su queste vicende. Quello che è certo è che di queste vicende, di queste realtà, si parla molto poco. Noi torneremo con le conclusioni, naturalmente, e cercando di capire qual è la strada che dovrebbe invece essere intrapresa a tutela di questi bambini. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. E siamo tornati in diretta, stiamo affrontando un tema che ovviamente ha mille aspetti, come dice la sigla. Ci sono storie vere e drammatiche anche sul fronte opposto, ci sono vicende disperanti in cui l'odissea dei bambini nasce per delle accuse a genitori che poi si rivelano infondate, magari anni dopo che il Tribunale dei minorenni ha allontanato i figli da quella famiglia. Noi però oggi ci stiamo concentrando su una situazione specifica e anche abbastanza diffusa. L'80% dei casi, ha detto l'avvocato Morcavallo, ora quantificare è difficile, ma senza dubbio ce ne sono diversi, segnalati anche da una approfondita inchiesta di Panorama del 13 novembre, solo per citare qualcuno che già si è dedicato a scavare in questa situazione. Praticamente sono migliaia i bambini, minori, ragazzi in Italia allontanati dalle famiglie per situazioni di indigenza. Parallelamente le rette pagate a delle case famiglie vanno dai 100 ai 416 euro al giorno, e ci sono proprio coppie di delibere che lo accertano. Ora ci si chiede, semplicemente appellandosi al buon senso, non è possibile, vista questa disponibilità, prevedere un intervento, tra l'altro espressamente richiesto dalla legge su queste tematiche, a sostegno della famiglia, invece che far sì che i percorsi di recupero dei bambini avvengano lontano dai genitori. Un tema che naturalmente suscita anche delle reazioni molto sferzanti, molto acute, e per questo do la parola a voi ascoltatori. Comincio da Alessandria, dove c'è Elena. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno Elena, ci dica, lei è un assistente sociale? Beh, insomma, questo, io ormai sono obsoleta, sono vecchia, Comunque voglio dire... È stata un'assistente sociale. Che la parola è sacra. Scusi, può rispondere, Elena? È sacra come ogni persona. Elena, mi scusi, non è una domanda imbarazzante che le faccio. È stata un'assistente sociale? Decisioni sulla pelle delle persone più bisognose. Questo è proprio forse... triste. Forse non rispondo a quello che lei vuole che dica, ma io dico quello che devo dire. Sì, ma perché nasconde la sua professione, anzi... Qui non si sta rispettando la persona. Le professioni sono in guerra tra di loro e chi lavora per la persona nel servizio sociale non è solo l'assistente sociale e non è l'assistente sociale colui che decide. Per cui... È fuorviante quello che state dicendo. Sarà un'esposizione di qualcuno che parla bene e parla tanto, ma questo non va a favore della persona. E qual è la verità e qual è la persona che dovremmo favorire, scusi? Qual è la verità? Visto che è fuorviante, qual è la verità, Elena? Io ho detto che l'assistente sociale non lavora da sola, è un'equipe che lavora. Per cui è fuorviante colpire una professione storica come quella dell'assistente sociale che ha lavorato sempre a favore della persona. Grazie Elena, forse è fuorviante quanto è stato percepito da Elena che sì, faceva l'assistente sociale, anche se non capisco perché non lo voglia ammettere pubblicamente, una professione nobilissima come lei stessa ha sottolineato, per cui non c'è ragione di nasconderla. Noi stiamo parlando dei casi in cui viene travisato questo rapporto e non si procede con quell'attività istruttoria che invece dovrebbe seguire alla relazione dell'assistente sociale. Non ci si può limitare a fare un copia e incolla della relazione dell'assistente sociale. Non è questa l'attività che la magistratura, preposta tra l'altro a questo delicatissimo compito, e ci sono giudici dei tribunali, dei minori che sono eccellenti e a cui intitoleremo una via, sono bravissimi, è ovvio, perché ci costringete ogni volta a specificare l'ovvio. Quando si parla di qualcosa che devia da ciò che dovrebbe essere, non si sta mettendo al bersaglio, sotto tiro, una categoria, altrimenti non si potrebbe parlare più di nulla, naturalmente. Quindi cercate per favore di fare interventi che siano specifici su questo tema. Andrea, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, lei chiama dalla provincia di? Io chiamo dalla provincia di Milano e volevo intervenire, grazie, è un tema interessantissimo, ha un vertice osservativo interessante secondo me. Che lavoro fa? Posso chiederglielo? Io sono uno psicologo e faccio il consulente nei servizi sui temi che riguardano la valutazione delle competenze genitoriali. Cioè, guardi, si parla di trasparenza, qua sostanzialmente noi stiamo cercando, non certo di fare un processo alla magistratura, non ne saremmo in grado, non abbiamo le competenze, che semplicemente queste procedure siano fatte in maniera trasparente. Nella maggior parte dei casi, viva Dio, è così, non possiamo pensare che ci siano sempre interessi o giri di denaro a motivare scelte così delicate, così cruciali, però siccome è stato verificato e accertato anche da sentenze della Cassazione, non da spunti di vista di Radio 24, che in molti casi è andata diversamente, abbiamo la libertà di parlarne. Lei è uno psicologo consulente di comunità famiglia, quindi se si sente chiamato in causa o accusato ha la possibilità di spiegarci dove invece risiede la verità in questi casi. Pronto? Pronto. Andrea? L'ho persa per un attimo. Ci parli, sono? Sì. Nulla, volevo solo dire questa cosa. Io vengo pagato per ragionare in trasparenza su quelli che sono i processi decisionali che portano ad una decisione del tipo un allontanamento, un inserimento in comunità, famiglia. Nella retta di cui parlavate prima, io sono compreso in quelle 100-400 euro al giorno, è anche previsto, si chiama supervisore, una quota destinata a professionalità come le mie. E ci fa piacere perché penso siano molto importanti per stabilire il tasso di disagio o di benessere del bambino. Psicologi sono fondamentali. Quello che volevo dire è questo, che anche le due telefonate che ci sono state del genitore affidatario, credo dell'assistente sociale che è intervenuta poco fa, credo facciano emergere la cosa interessante su cui ragionare, cioè molti di questi pasticci, io li chiamo così, di cui anche oggi voi state parlando, sono l'esito di improprie generalizzazioni. Questo è un po' il veleno che c'è all'interno di questi processi decisionali. Cioè, cioè sia più specifico, generalizzazioni da parte di chi? Di cosa sta parlando? Da parte dei professionisti, degli osservatori, che portano poi ad alcune, a costruire alcune relazioni o a prendere alcune decisioni. Nell'intervento del genitore affidatario, avrete sentito anche voi, c'erano delle improprie generalizzazioni. Io ho visto queste famiglie, io conosco questi genitori, c'era un'idea di famiglia monoparentale a rischio, questi genitori sono da soli, hanno 5 figli, piuttosto che... Poco fa la collega, l'assistente sociale, parlava della categoria degli assistenti sociali. Sono tutte generalizzazioni, sono cornici dentro le quali bisogna entrare e guardare con infinita attenzione e cura quello che succede, senza generalizzare. Andrea, le faccio una domanda, visto che ha un osservatorio particolare, ha la possibilità di raccontarci, diciamo così, dalla prima linea. Lei lavora nelle case famiglia. Le è capitato, nella sua veste di psicologo, di incontrare, di refertare, un brutto termine purtroppo devo usarlo, dei bambini che erano stati allontanati dalle famiglie per ragioni, secondo lei, non sufficientemente valide, cioè di capire? Nella maggior parte dei casi, direi nella maggior parte dei casi. E a quel punto lei cosa fa? E a quel punto si lavora per ricostruire la relazione rientro a casa in tempi, diciamo così, che siano i più brevi possibili e nelle forme più appropriate possibili. Perché a volte succede, cioè c'è un percorso corretto a volte. Sì, a volte c'è un percorso corretto, ma questo percorso è molto complesso. Cioè, quando arrivano i bambini all'interno delle comunità famiglie, quello è l'esito di un processo molto complesso, disordinato spesso, e spesso, sto generalizzando anch'io adesso. È inevitabile, visto che dobbiamo raccontare un fenomeno nazionale, non possiamo entrare, è chiaro, riga per riga in ogni singolo provvedimento che riguarda ogni singola persona. Sì. Però possiamo fotografare una tendenza per capire come migliorarla, come potrebbe essere migliorata. Ed è molto importante la sua testimonianza, perché appunto è basata sull'esperienza e non solo sulla lettura. L'esperienza delle storie, l'incontro con le storie e con le persone che partecipano e costruiscono le scene di cui state parlando voi, insomma. E uno dei rischi è questo, cioè quello che dicevo prima, uno dei difetti, diciamo così, è il fatto che lo sguardo con cui vengono accolte queste storie, con cui vengono gestite, spesso fa delle generalizzazioni. La scena che è stata raccontata dalla mamma che avete sentito al telefono, sì, dove entra l'assistente sociale e vede un bambino che è lavato in una tinozza con questa scena presa di per sé, come dire, può suscitare moltissime perplessità o anche ironie, dipende. Non so. Guardi, io credo che entrando a caso in ogni famiglia, esatto, senza essere annunciati, inclusa la mia, esatto, in un momento random della giornata, ci si... Esattamente questo che voglio dire. Si avrebbero molti dubbi sulla capacità genitoriale di chi è coinvolto tutti, in quel nucleo. Di tutti, mia compresa, che ho figli pure io, insomma. Andrea, grazie, grazie, bellissima naturalmente questa percezione e questa filosofia di questo psicologo e assistente sociale che si pone delle domande ancora una volta senza certezze. Lo raccontano anche i nostri ascoltatori con gli sms al 349-238-66, molto simpatica Tiziana che ci dice: io lavo i figli nella tinozza, non per questo posso o vorrei essere considerata un genitore inadeguato. Ci sono queste scene poi scritte nelle relazioni, nei verbali, che giustificano, insieme ad altri elementi, questo dolore del distaccamento dei figli dalla famiglia. Ringraziamo tantissimo la mamma Silvia Petri, il papà che sappiamo all'ascolto, che ha cercato in tutti i modi di farsi regolarizzare quel contratto da precario e c'è riuscito, ora è un lavoratore a tempo indeterminato vede i suoi figli solo nel fine settimana, ma presto, speriamo, ci sarà una risoluzione a questa vicenda. Avvocato Maria Carsana, nel caso specifico che ha aperto questa trasmissione, abbiamo aperto con la storia di Silvia Petri, si riusciranno questi bambini che lo chiedono ogni fine settimana a tornare in famiglia a tempo pieno? Ma io me lo auguro, stiamo lavorando in questa direzione. Certo, è fondamentale il fatto che il comune di residenza di questi bambini deve mettere a disposizione un'unità alloggiativa, non possono avere la casa del comune perché c'è una graduatoria, gli dessero un alloggio in albergo. D'altronde questo prevede la legge. Di quali leggi sta parlando lei? A quali riferimenti normativi fa? Allora, io parlo dell'articolo 31 della Costituzione, sì, dell'articolo 79 bis introdotto all'interno della legge sull'adozione, dal decreto legislativo 154 del 2013, e dell'articolo 1 della legge sull'adozione, che come prima cosa dice che i bambini devono avere il diritto di crescere all'interno della loro famiglia. E questo è sancito anche dalla Costituzione. Lei, esatto, quanti casi di questo tipo dalla sua associazione per la tutela del minore si trova ad affrontare? Ma guardi, purtroppo sono tantissimi. Sono tantissimi, le dico un esempio, ho un caso di una donna vittima di violenza di genere che era stata accolta in una casa famiglia proprio per essere tutelata lei e i suoi bambini. L'assistente sociale ha relazionato al tribunale che la madre si era allontanata per ignota destinazione e mentre si trovava alla casa famiglia gli sono stati portati via due figli e sono 2 anni che stanno in comunità. Sulla base di una relazione di una categoria, sociale. Lo ribadiamo un'altra volta, che ha infiniti meriti, ma che a volte si trova a giudicare frettolosamente e a scrivere relazioni che dovrebbero essere il punto d'inizio di un'indagine e non invece il punto d'arrivo per una decisione così importante. Grazie all'avvocato Maria Carsana. Vorrei concludere con l'avvocato Francesco Morcavallo, a cui sottopongo diverse delle sollecitazioni che ci arrivano anche dagli ascoltatori. Scusate il sorriso, perché naturalmente c'è qualcuno che fa ironia anche su una delle cause d'allontanamento, la segnalazione da cui è partita l'intervento degli assistenti sociali nel caso di questa famiglia Petri, diceva merendine da discount, proprio così, usavano delle merendine da discount per i bambini, famiglia degenere, avrebbero dovuto usare marche più famosi, ci sottolinea con amarezza un ascoltatore. Le istituzioni, ci dice invece Danilo, purtroppo tendono quasi sempre a favorire altre istituzioni anziché l'istituto sociale della famiglia, di cui tutti si riempiono la bocca. E parliamo anche di business, parliamo anche di interessi. Nel suo caso specifico, lei aveva denunciato il conflitto di interessi da parte di alcuni del Tribunale dei Minori, avvocato Morcavallo. Sì, ho casi di conflitti di interesse relativi alla, diciamo, appartenenza e alla collaborazione di giudici onorari di tribunali nelle strutture di cosiddetta accoglienza dei minori, ma questo è un profilo del problema. Il profilo più generale riguarda le commissioni che ci sono all'interno della giustizia, soprattutto dei tribunali per i minorenni, l'appartenenza di chi opera nei tribunali per i minorenni alle stesse entità, alle stesse associazioni, agli stessi ambiti che controllano poi il mercato delle case famiglia. Si tratta di enti religiosi e di cooperative appartenenti all'area delle cooperative, diciamo, che nel momento storico attuale, da 10 anni a questa parte almeno, sono confluite in un'area politico-culturale molto vicina ad altre entità Insomma, lei ha sollevato un velo, cito lei, ma perché la sua vicenda è importante. Ma non sono io, in realtà ci sono delle associazioni, ci sono degli studi, ci sono degli istituti, c'è l'Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare, l'Associazione Finalmente Liberi, una serie di, Finalmente anche, liberi. Di colleghi coraggiosi, che purtroppo sono pochi, di avvocati. Però vale la pena citarli, perché sono commissioni d'inchiesta istituite proprio su questi temi dalla Federcontribuenti e sostiene. In realtà nasceva nella Federcontribuenti questa specifica associazione, poi si è autonomizzata. Finalmente liberi. Dice che il business degli affidi in Italia, in troppi casi opaco, può valere fino a 2 miliardi di euro. Ci sono poi le accuse che lei ha sollevato sulla mancanza di trasparenza, confermate dalla Corte di Cassazione e dal CSM. Ora non entreremo in questi meriti specifici, ma vale la pena citare come sia stato i riscontri che ci sono state alle questioni che abbiamo affrontato e ancora stiamo affrontando oggi per questa vicenda decisamente drammatica che ha aperto la trasmissione, ma che abbiamo visto è molto diffusa in Italia. Quale dovrebbe essere, visto che è un fenomeno non solo italiano, quello dell'assistente sociale che anche spesso in buona fede sbaglia e determina il destino di bambini, quale dovrebbe essere una procedura corretta? Qual è quel percorso che forse tutelerebbe, anche se la perfezione in questi casi naturalmente non si può cogliere? Ma è il percorso, l'iter della decisione che è proprio di ogni giudizio in ogni materia, cioè l'accertamento specifico dei fatti, di fatti concreti, non la formulazione di giudizi di valore, e la ricerca della prova di questi fatti. Questo è la valutazione della prova di questi fatti, questo è l'iter della decisione in ogni tipo di procedimento. Solo nel procedimento minorile rimane questa specie di prassi contra legem per cui la decisione si basa su impressioni. Questo non vuol dire attribuire un demerito, una colpa a una categoria, quella degli assistenti sociali, anzi, forse vuol dire tentare di tornare a valorizzare la categoria dell'assistente sociale come operatore del sostegno alle famiglie e alle persone. Grazie per questa sua testimonianza, grazie dunque a Francesco Morcavallo, avvocato presso il Tribunale dei Minori di Bologna, all'avvocato Maria Carsana e a Silvia Petri, la madre di 6 figli che abbiamo sentito in apertura di questa trasmissione e che presto, si spera, riuscirà a riavere i bambini sotto lo stesso tetto, una famiglia giudicata da tutti comunque, al di là dell'indigenza, più che idonea e più che amorevole. Noi ci fermiamo a questo punto per riprendere tra pochissimo affrontando un altro tema che ha a che vedere con il vivere in comune, vale a dire il tema del vicinato. Altri tribunali? In questo caso si parla di cause condominiali spesso intentate da vicino a vicino, compagno di pianerottolo. Si parla però anche di pratiche che hanno portato alla creazione di vere e proprie comunità di strada, grandi amicizie, grandi vicinanze. Tutto questo in spunti di vista. Vogliamo sentire anche voi all'800 24 00 24. Vi fidate dei vostri vicini? E soprattutto avete storie da raccontare, magari nate male all'inizio e poi convertite in qualcosa di bello, di godibile? Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Di una bella idea vi parliamo ora, ancora buongiorno da Irene Zerbini, vi parliamo dell'idea del social street, a origine dall'esperienza di un gruppo Facebook, si chiamano Residenti in Via Fondazza Bologna. E quando hanno iniziato? Nel settembre del 2013, ma facciamo raccontare a loro ciò che hanno fatto. Luigi, buongiorno. Buongiorno. Luigi Nardacchione, qual è l'obiettivo di questo gruppo Facebook Residenti in Via Fondazza e cosa ne è derivato da quella prima volta in cui avete postato la pagina? Sì, certo. L'obiettivo primario era molto molto semplice, resta molto semplice, cioè quello della socialità fra le persone, nato da una constatazione fatta da un residente, Federico Bastiani, che è stato il fondatore. una strada già da 3 anni di non conoscere praticamente nessuno, come capita molto spesso del resto. Quindi pensa a questo gruppo chiuso Facebook perché è gratis, tutti ce l'hanno Facebook, molte persone le hanno, quindi senza grandi costi, di aprire questo gruppo, si aspetta di trovarsi 20-30 persone nel gruppo con cui socializzare. Ci siamo ritrovati attualmente, dopo neanche 10 mesi, a 900 persone solo nel gruppo Facebook residenti via Fondata qui a Bologna, a 50 strade a Bologna, 290 strade in tutta Italia, da Trento a Ragusa. Cioè avete sollevato proprio un polverone, evidentemente c'è bisogno, c'è voglia di conoscersi. Sul fatto, la vostra esperienza è stata raccontata come la voglia di qualcuno a cui chiedere il sale, ma si va ben oltre la richiesta di sale. Beh sì, teniamo presente comunque che la cosa molto importante per noi è quella di stare fermi sull'obiettivo primario, la socialità, tutto il resto viene di conseguenza. Noi non siamo una banca del tempo, quindi certo ci sono gli scambi, ma questi scambi devono portare, portano, cosa che succede, amicizia più che un fatto puramente economico. Poi c'è un'economia di ritorno, certamente il fatto di sapere che qualcuno ti può aiutare e che ti aiuta, non so, nei problemi di tutti i giorni, è un fatto molto, molto importante anche economicamente in alcuni casi. Ma lei dove abita? Luigi, lei abita naturalmente via Fondazza. E l'ultima sì, volta sì, che è andato a un evento organizzato da voi, quando è stato? Ieri? Sì, guardi, sì. È stato ieri, ci siamo ritrovati per parlare nel nostro giardino qui, Lavinia Fontana, che è qui nella nostra zona, e c'è stata un'intervista di una ragazza che sta facendo una tesi di laurea, per esempio, quindi ci siamo trovati su di voi per portarla. Sì, no, beh, su di noi noi abbiamo attualmente una ventina di tesi di laurea sul fenomeno social street, da diverse università, da Venezia, Milano, Roma e via dicendo. Ma ripeto, questo qui è un fatto che ha sorpreso anche noi, tutto questo interesse, perché la cosa, diciamolo onestamente, è molto banale, il fatto di ripensare, semplicemente di salutare i vicini e di essere in un contesto della strada, perché uno dei punti fondamentali è il fatto che è limitato, diciamo, il gruppo alla strada, proprio perché noi vogliamo che si passi direttamente dal virtuale Facebook al reale nella strada, proprio per darsi la mano, per conoscersi, per condividere il tempo. E quindi siete stati sommersi da un successo insperato, sì. Pensavate fare due partite a briscola, invece ormai è diventata un'attività a tempo pieno. È molto bella questa storia. Ma Luigi, se qualcuno volesse cercare il social street più vicino a sé, dove deve andare? www.socialstreet.it. Noi abbiamo appunto, ci sono 290 strade non solo in Italia ma anche all'estero, ormai in Croazia, siamo arrivati in Nuova Zelanda, tra Brasile e Portogallo ci sono altre decine di strade che sono nate. Ma la cosa importante non è solo quello di trovare la strada più vicina, quello che noi chiediamo, anche suggeriamo di fare e aiutiamo a fare, di creare la propria strada. Chiarissimo, grazie Luigi. Marco, prego. Buongiorno, Marco è un ascoltatore, chiama dalla provincia di Treviso, potete farlo anche voi, 800 24 00 24. La vostra esperienza col vicinato, buongiorno Marco. Sì, buongiorno. Io porto un'esperienza positiva, mi sono trasferito da 4 anni in un condominio, siamo 5 famiglie, abbiamo una famiglia marocchina, una rumena e siamo 3 famiglie italiane. Ma noi viviamo, tra virgolette, molto bene, ma andiamo molto d'accordo, facciamo una grigliata in compagnia ogni 3-4 settimane. Abbiamo la famiglia marocchina che purtroppo è in difficoltà, cerchiamo di dargli una mano pagando noi la bolletta del condominio, perché nessuno è ricco, tra virgolette, all'interno del condominio. Per esempio, che bellissima esperienza ci sta raccontando Marco. È molto interessante, perché noi pensavamo di parlare solo di quelli che stanno intasando i tribunali, nel senso che, stando alle cifre, le liti e le opposizioni di condominio sono tra le cause principali del sovraccarico dei tribunali in Italia. Ci sono rumori, odori provenienti da altri appartamenti, ticchettio di scarpe femminili, anche questo farebbe molto innervosire l'odore di cipolla addirittura, si trascinano in condominio per, scusate, ma per l'odore di cipolla, i rumori in cortile danno fastidio anche ai bambini, eh? I bambini che giocano, ah no, questo proprio non si può tollerare, tant'è che appunto ci sono cause intentate gli uni contro gli altri per queste ragioni, innaffiature di piante, ma ce n'è una lista infinita. Voi avete mai avuto occasione, non so, di discutere su una pratica di qualcuno che dava fastidio a qualcun altro e l'avete risolta parlandovi? Marco? Pronto? Sì, mi sente? Sì. Sì, più di qualche volta i bambini sopra saltano e corrono, soprattutto in giornate di pioggia, ma tra virgolette un po' di pazienza la si può portare, dopo mezz'ora sali, dici perché c'è, avete finito di correre, banda di briganti, e loro smettono a giocare a Monopoli e cambiano tipo di gioco, cioè, nel senso bisogna avere un minimo di pazienza e poi dialogare, soprattutto perché se non dialoghi tendi a voler far rispettare i tuoi diritti a tutti i costi, e a quel punto lì nascono le liti, bisogna sempre un po' smussare gli angoli, diciamo. Grazie Marco, e naturalmente buona giornata in questo condominio trasformato in una sorta di famiglia allargata. Basta il dialogo, ci ha segnalato questo ascoltatore, ma è così. Giuseppe Bica, buongiorno. Buongiorno a voi. Qual è la sua esperienza? Lei che è presidente dell'Associazione degli Amministratori di Immobili. Beh, intanto confermiamo che i dati sul contenzioso condominiale sono elevatissimi e in crescita anche, diciamo che il 70-75% delle cause in tribunale riguardano il condominio. Ecco, ascoltavo anche l'ascoltatore di prima dove diceva appunto del suo condominio di 5 famiglie, ecco, questa è una realtà più difficile da riscontrare nelle grandi città dove i condomini hanno numeri di alloggi sicuramente più elevati. Tra le cause di litigio più rilevanti sono appunto quelle, le cosiddette immissioni, di cui all'articolo 844. Immissioni, aspetti, no, perché detto così immissione sembra un'invasione di spazio. Cosa consiste l'immissione? Le immissioni sono tutte quelle situazioni che si vengono a creare laddove non c'erano, e sono immissioni di tipo odoroso, immissioni di tipo rumoroso e così via. Immissione di tipo odoroso cosa significa? Significa che specialmente negli ultimi tempi, dove c'è una certa globalizzazione anche dell'abitare, molte città, soprattutto le grandi metropoli, sono abitate da persone che non hanno la nostra cultura culinaria e quindi hanno abitudini diverse, e questo crea il fastidio, tra virgolette, da parte di chi non è tollerante ad accettare questa realtà. Succedeva anche con gli italiani a New York, ci denunciavano in continuazione per il soffritto alla base del sugo di pomodoro, quindi la storia si ripete. Ma noi abbiamo avuto delle esperienze anche molto positive dopo la contestazione all'amministratore di condominio, fatto oggetto appunto di queste contestazioni, anche con l'aiuto dell'associazione, della nostra associazione, della NAMMI, gli amministratori di condominio fanno dei veri e propri corsi anche di psicologia del condominio, anche perché, come ricordavate voi, il condomino che incontriamo normalmente sul piano edottolo di casa poi non è la stessa persona che incontriamo in assemblea, dove si scatenano delle situazioni veramente verosimili certe volte. No, ma scusi Giuseppe Bica, lei è presidente degli amministratori di condominio e quindi immagino sia un collettore di storie da libro, ci fosse tempo, chissà cosa le raccontano poi anche tutti i colleghi. Lei ne avrà vissuta anche in prima persona, cioè, ma ci spieghi un attimo la procedura. Prima di arrivare in tribunale si rivolgono a voi? Allora, intanto precisiamo che l'amministratore è coinvolto anche in situazioni dove il condominio c'entra ben poco, sono situazioni del tutto personali, molto spesso il condominio, ripeto, è coinvolto perché è una comunità dove ognuno cerca di avere ragione e quindi cerca giustizia anche nel primo organo di tutela, che è proprio l'amministratore di condominio, che ha questa veste, dovrebbe avere questa veste di paciere della piccola società condominiale. L'amministratore interviene per cercare di risolvere il problema, aiuta e dà le informazioni necessarie perché si possa risolvere stragiudizialmente quella che è un contenzioso che invece sfocerà finirà sicuramente in un contenzioso giudiziario, e quando ci riesce è un buon amministratore. Quindi lei a volte ci è riuscito? Come no, sicuramente sì. Per esempio quella della cucina etnica era un grosso problema fino a qualche anno fa, e noi con una nostra politica proprio di diffusione di quelle che sono le tecniche di composizione di queste vertenze siamo riusciti per esempio a fare la cucina condominiale a tema, sentivo prima un ascoltatore che diceva quasi la stessa cosa, facendo partecipare alla cucina tutti i condomini naturalmente di origine diversa da quella comunitaria europea, hanno invitato nell'androno, nella sala condominiale dove esiste, tutti i condomini ad assaggiare la cucina etnica con grandi risultati, e anche i complimenti. Interessante, molto, molto creativo. Ho partecipato anch'io personalmente e mi sono stupito del fatto che poi non corrispondevano poi al gusto. Si è stupito. È bellissimo come il cibo abbassi le difese. Di fronte a una tavola imbandita si riesce a dialogare. Grazie. Sì, Giuseppe Bica, rimanga con noi e ci segnalate voi con i vostri sms problematiche, tipo soffritto alle 9 di mattina. Mattina, bimbi urlanti che nessuno calma, precisa Vania, al 349-238-6666 ci sono anche messaggi più concilianti, esperienze positive e qualcuno da Biella che ci dice che in certe zone tra vicini ci si spara, quindi ha un tono completamente diverso rispetto alle storie belle, positive e di risoluzioni pacifiche anche di conflitti che abbiamo sentito finora. Andiamo a sentire cosa succede a Cagliari, per esempio. Rita, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno Rita. Io abito a Quarto, esattamente a Quarto Sant'Elena, una città a 8 km da Cagliari, ma esattamente abito sul litorale, sulla strada che porta Villa Simil, quindi 2-300 deve essere una vita durissima, sì. Allora, noi siamo partiti tantissimi anni fa, ci abito già 27 anni come lottizzazione privata, poi siamo diventati comunale, la mia strada in particolare fa un cul-de-sac, per cui c'è una piazzetta e noi ci siamo già riuniti in una specie di social club da tanti anni, grazie alla lungimiranza di una nostra vicina che è stata la pioniera, che purtroppo non c'è più e che voglio ricordare si chiamava Teresa, e ha praticamente organizzato queste cene di vicinato per conoscerci, perché le villette comunque ci si faceva buongiorno, buonasera e non ci si conosceva mai, non si faceva mai niente. Quindi organizziamo ogni anno questa cena di vicinato e da un paio d'anni abbiamo anche noi una pagina Facebook. E quanti siete? Quanti siete in questa strada più o meno? Allora, la strada è lunga, però diciamo il cul-de-sac potremmo essere una grosso modo 15 famiglie, però quando organizziamo le cene noi diciamo ognuno porta qualcosa, apparecchiamo per strada come alla maniera delle fiere inglesi, ognuno porta qualcosa, se non può portare nulla porta un amico, un vicino, un parente, così siamo in tanti e festeggiamo, così è giusto per l'idea, per stare insieme. Ma al di là del piacere di quella sera, del cibo, sì, vi siete anche aiutati in situazioni? Sì, ci aiutiamo, esattamente, siamo molto solidari. Sul litorale sono, purtroppo ci sono sempre degli episodi un po' furti, queste cose, di conseguenza a volte qualcuno sente, si affaccia la notte, se sente dei rumori, a volte capita che abbiano aperto le macchine e così via, quindi siamo sempre lì, chi parte per esempio sa che può contare sul vicino per i cani, per l'acqua, le piante. Beh, fantastico, grazie Rita. Rita dalla provincia di Cagliari, un'altra esperienza che racconta storie positive, sembrano in controtendenza rispetto alle cifre che arrivano dalle procedure civili nelle aule di giustizia. Quindi da una parte sicuramente l'Associazione Nazionale degli Amministratori di Immobili ci segnala situazioni di grande tensione, dall'altra la società civile si sta organizzando per risolverle e addirittura anticiparle. Alida, buongiorno. Pronto? Buongiorno a voi, mi senti? Sì, Alida, lei da dove chiama? Da Ferrara. Ferrara. Da Ferrara, sì. Anche a Ferrara abbiamo fondato un'esperienza molto molto simile, anzi copiata pari pari da quella di Via Fondassa. Quindi voi siete stati ispirati dai bolognesi, avete visto su Facebook cosa facevano e cosa avete organizzato, al di là della cena di vicinato che sicuramente non manca. Certo, le cene non mancano mai. Dunque abbiamo organizzato tante cose. Prima di tutto ci siamo conosciuti, perché questa è una via piccola, ma è una via senza negozi, è una via di condomini altissimi, nuovi, in cui veramente le persone non si conoscono, è quello che si può definire un dormitorio, ecco, senza negozi, eccetera. E, prima di tutto ci siamo conosciuti e abbiamo cercato di capire chi siamo, cosa facciamo, eccetera, eccetera. Alida, la fermo e le chiedo scusa, e tra poco cercheremo di capire con lei cosa avete fatto. Prima però dobbiamo dare gli aggiornamenti sul traffico. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Attenzione, ci dicono, almeno citiamo il problema dell'abbaiare dei cani e la mancanza di sicurezza per il possesso di cani aggressivi, ci andremo tra pochissimo. Ora abbiamo interrotto la nostra ascoltatrice Alida da via Pitteri, sappiamo anche gli indirizzi di Ferrara, dove una via dormitorio, quindi un caso abbastanza classico dell'urbanistica italiana, dove nessuno si conosce, non quei casi bellissimi, molto così suggestivi che ci venivano raccontati anche da Cagliari, sì, sul litorale. Qui siamo in uno scenario diverso, quindi forse è ancora più difficile, sì, far incontrare la gente. Invece cosa è successo, sì, Alida? Ma come dice, è veramente uno scenario difficile, nel senso che per esempio noi qui abbiamo un'altissima densità di cani e il problema cane non è facile da risolvere, per cui anch'io che ho un cane spesso incontravo persone con cui il mio cane ruggiva, abbaiava, si azzannava, tirava, mi minacciavano, dicevano ah ma lei non lo lasci libero, insomma è tutto un contesto, per esempio anche solo per questo argomento, molto difficile. E come l'avete risolta? Esatto, conoscerci, lasciando i cani a casa ci ha permesso di riconoscerci come persone, di parlare, e automaticamente anche il discorso cani si è risolto, cioè si è risolto spontaneamente, perché nel momento in cui tu non vedi più la persona, il padrone del cane, ma vedi un insegnante che come te ha insegnato in quella scuola, che sai che ha un figlio che comunque va in piscina col tuo, automaticamente vedi le cose in un modo diverso. Quindi è un suggerimento pratico molto atipico quello che lei sta dando. Lei dice ci si parli del problema dei cani e in contumacia, nel senso il cane deve stare a casa, e da lì poi le problematiche suscitate dall'abbaiare eccetera verranno risolte con più serenità, e dal proprietario di cane e da chi segnala rumori molesti. Alida, grazie naturalmente per questa testimonianza. Andiamo da Bruna, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Bruna, ci allora, dica. Io volevo raccontare la mia esperienza. Io mi trovo, abito a Milano in un condominio dove è venuta una signora che affittava sempre, è venuta a abitare, e mi ha fatto mandare una lettera dall'avvocato che nel condominio avevo 10 cani, 100 gatti e centinaia di uccelli che schiamazzavano e turbavano la quiete di questa suddetta. Ho risposto che praticamente non possedevo cani, avevo solo 2 gatti che non uscivano mai e non ero in grado di controllare il volo degli uccelli che si aggiravano nei cieli di Milano. Mi sono ritrovata una causa con cui sono ancora in ballo adesso. Incredibile. Quindi, Bruna, io cani non ne ho perché non ne ho mai avuto, mia figlia ha i cani però sentini a casa sua. Quindi questo è il caso di una persona accusata ingiustamente. Grazie. Grazie a Bruna, e però anche del malanimo che spesso c'è nei condomini. Lei è sorpreso da quanto ha sentito, Giuseppe Bica? Ma no, per niente proprio, sento con stupore invece che c'è un buon componimento e la tendenza a parlarne. La conoscenza, come diceva un'altra ascoltatrice, la conoscenza è amore, quindi conoscendo le persone poi si diventa anche più tolleranti, questo sicuramente è un buon... Questo caso di accuse infondate e che poi generano una grandissima attività anche da parte dei tribunali, lei ne ha vissute da presidente dell'amministratore dei condomini? Sì, certo, sicuramente sì, per esempio il caso dei cani di cui citavate prima la problematica, molto spesso si è accusati di essere anti-animalisti quando chiediamo al padrone del cane maggiore attenzione e soprattutto rispetto proprio per il cane stesso. Non si può permettere che un cane di grossa taglia sia stantio su un balconcino di 1,5 metri quadrato. Ecco, questo non è amore per i cani. e quindi attenzione anche al rispetto dell'animale. Grazie. E poi, questa mancanza di rispetto crea tutto il contenzioso col condomino poi. Grazie, la strada della mediazione naturalmente ci suggeriscono gli ascoltatori al 349-238-6666 e al dialogo porta sempre alla risoluzione, forse è sempre pecca d'ottimismo, però in effetti avete sentito anche dalle testimonianze la direzione e lo strumento coglie abbastanza nel segno. Roberta Carlini, buongiorno. Buongiorno. Roberta Carlini è una scrittrice e autrice del libro L'economia del noi, l'Italia che condivide. Credo che il suo libro parli non solo naturalmente di Social Street, ma sia stato alimentato proprio da esperienze come quelle che abbiamo sentito. Questa economia del noi, queste pratiche che abbiamo illustrato anche stamattina, hanno una vera e propria valenza economica o sono semplicemente così marginali? Assolutamente sì, diciamo che il mio libro è partito un po' dall'idea di andare a indagare su pratiche di collaborazione per risolvere un problema economico. Allora, tutti i casi di cui abbiamo parlato finora lo sono in parte, naturalmente si parla di una questione più ampia che non solo quella economica, no? Perché c'è la convivenza tra vicini nel quartiere, nel palazzo, però cosa c'è di più importante come valore della propria casa o della casa in cui si è in affitto? È la condizione prima della propria esistenza, quindi in questo senso è economia. E cosa succede? Che l'economia ci insegna spesso, ci viene insegnata spesso come basata su una logica solo individualistica, io massimizzo il mio profitto, il mio benessere. In base a questo ragionamento il proprietario del cane non avrebbe nessun interesse a raccogliere per esempio la deiezione del suo cane, perché tanto quella strada non è sua, se tutti gli altri lo fanno, no? E lui non lo fa, non se ne accorge nessuno. In realtà è uno dei casi tipici in cui invece una logica di collaborazione fa star meglio tutti. Ma lei ha notato che in Italia, Roberta Carlini, lei ha notato che in Italia sta cambiando un po' il clima, la mentalità, si va verso questa economia del allora, noi? Secondo me allora una sottotraccia di economia del noi, di solidarietà c'è sempre stata, ma in passato aveva una tinta un po' più politica, diciamo anche ideologica, cioè una scelta di vita, no? Come potevano essere i gruppi d'acquisto, come poteva essere tutto il movimento della finanza solidale. Adesso queste esperienze ci sono ancora, sono cresciute e sono molto aiutate dalla tecnologia e dall'economia dell'informazione, come abbiamo sentito dal caso del gruppo Facebook e come si può sentire da tanti altri, come vediamo sulle nuove forme di condivisione. Ecco, tutto quello che oggi si chiama sharing, che poi c'è una parola molto bella anche in italiano che è anche più efficace, cioè condivisione. C'è condivisione, c'è convivialità, perché c'è anche l'elemento del divertimento. Al di là della risoluzione dei problemi, vivere in un vicinato in cui ci si parla, in cui si fanno le cose insieme, è molto più divertente. È molto più divertente e diciamo che c'è una generazione che è un po' nata utilizzando gli strumenti, che è cresciuta utilizzando gli strumenti della condivisione, no? Come la rete, quindi un po' più portata. Io non è che mitizzo Facebook per esempio o che mitizzo la rete, sappiamo tutti anche che possono essere dei potenti veicoli però in questo caso aiutano e sono utilizzati, è servita molto. Per rispondere alla sua domanda, sì, secondo me c'è un po' per necessità, per la crisi economica, e un po' per virtù, perché le generazioni si evolvono, c'è un aumento dell'economia, della condivisione. E ci fa piacere anche questa istantanea scattata da lei. Andrea, buongiorno. Buongiorno. Lei fa parte di un social street, si è divertito molto. Quali sono gli avvenimenti che ricorda, che posta su Facebook e che trova veramente sorprendenti, che nemmeno lei si immaginava potessero accadere tra persone che non si conoscono? Ma sicuramente, come appunto già stato detto anche da tutti gli altri ascoltatori che sono intervenuti, una delle cose più belle è che queste iniziative, questa voglia di condividere gli spazi poi genera tutta una serie di interventi da persone che non sono per forza collegati a Facebook, e quindi abbiamo scoperto persone che appunto di una certa età anche, che hanno apprezzato e hanno aiutato, insomma. Noi abbiamo fatto degli interventi per esempio su una piazza qui a Milano, la piazza di Lambrate, dove abbiamo praticamente installato una specie di giardino di quartiere, e in questa occasione abbiamo scoperto che appunto la gente non vedeva l'ora, insomma, di scendere in piazza, di conoscersi, di partecipare. Poi da lì sono nate tutta una serie di iniziative successive, però la cosa bella appunto è quella, l'aver scoperto che le persone apprezzano questi tipi di interventi, perché poi il negoziante ha offerto il suo contributo, il bar ha offerto il caffè, chi poteva ha offerto piante, chi ha... Esempi da imitare, e però per tutti questa scoperta, questo terreno comune è più facile di quel che si creda, cioè basta lanciare un sasso e poi arrivano i cerchi concentrici inevitabilmente. Noi andiamo a fare un social street di là in redazione insieme ad Anita Panizza, che ringrazio, è una delle autrici di questo programma, con Barbara Bianchi, Luca Cremonese. Ringrazio anche Carmelo Lauricella in regia e vi do appuntamento con Spunti di Vista a domani mattina alle 8:15. Abbiate una giornata magnifica, un saluto da Irene Zerbini.